Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti. In regia abbiamo già pronto Fabio Cantadori, in redazione come sempre Laura Vanossi, e abbiamo anche il nostro sommario che andiamo subito ad ascoltare. Ansia, come farsela amica. Alcol, chi esagera rischia grosso. Buone nuove dal sottobosco, le proprietà del Ribes Nigrum. Ansia, sappiamo che serve, perché ci aiuta ad affrontare la vita, anche a superare i cambiamenti che la vita ci impone, ma sappiamo anche che è facile rimanerne ingabbiati, sopraffatti, da amica, quindi su cui contare, trovarsela nemica da fronteggiare e combattere. Oggi impareremo a evitare che questo accada. Ci aiuta il professor Giampaolo Perna, direttore associato del Master Internazionale sulle Neuroscienze Emotive dell'Università di Maastricht e autore di Ansia, come uscire dalla gabbia e riprendersi la vita, PM Edizioni. Professor Perna, buongiorno e bentornato. Buongiorno Nico e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, professore, l'ansia per metà nasce con noi, l'altra metà la recuperiamo strada facendo. In questo l'ambiente in cui viviamo ci dà sicuramente una mano, anche se ormai è provato, l'ansia non è un prodotto della società di oggi, è sempre esistita. Beh, sono considerazioni vere. Intanto precisiamo che l'ansia, o meglio l'allerta, appartiene a tutti ed è un bene prezioso perché ci permette di affrontare i pericoli e superare gli ostacoli preparandoci ad affrontare i cambiamenti. Quando invece diventa patologica, allora è un qualche cosa che disturba la nostra vita, quindi che non ci aiuta a superare gli ostacoli e soprattutto limita la possibilità di vivere una vita piena. Quindi è molto importante distinguere questi due elementi. L'ansia patologica ha una componente genetica, come dicevi, sì, di predisposizione, però poi ci sono fattori ambientali che modificano, scatenano il disturbo e creano poi quella che è la figura in cui si ritrova una persona alla fine. Però sicuramente ricordiamoci che l'ansia è una componente nostra, naturale, che ci appartiene. 800 24 00 24, se volete parlarne con noi, messaggi come sempre al 349 238 6666. Professore, stavo pensando questo: quando noi diciamo ansia pensiamo ad una serie anche di sintomi fisici e anche poi ad una serie di sintomi mentali, spesso convivono alimentandosi reciprocamente, ma sappiamo anche che ci sono persone che l'ansia la vivono più nel corpo, altre più nella mente. È così? È proprio vero che le manifestazioni dell'ansia possono essere sia fisiche che mentali. A seconda dei disturbi d'ansia abbiamo quadri anche differenti. Faccio un esempio. Sì. Nel disturbo di panico ci sono molti sintomi fisici cardiorespiratori e dell'equilibrio. Ed è molto importante questo perché spesso l'attacco di panico viene scambiato per una crisi medica, tant'è che le persone vanno spesso dal medico del corpo. Invece altri pazienti ansiosi tendono a rimuginare continuamente, quindi essere preoccupati diventa quindi qualcosa di mentale. Altri ancora hanno manifestazioni gastrointestinali e sicuramente il nostro DNA in qualche maniera guida la tipologia dei sintomi, anche se dobbiamo ricordarci che esistono regole comuni, cioè ognuno ha un disturbo ben preciso, ma il modo in cui si manifesta può variare a seconda della predisposizione personale. Allora, chiediamo subito ai nostri amici da casa quali sono i bersagli preferiti dalla loro ansia. Possono chiamare il nostro numero verde. Intanto noi abbiamo chiamato Stefano Gallarini. Ciao Stefano. Buongiorno, ciao a tutti, buongiorno agli ascoltatori, ciao Nicoletta, buongiorno professore. Che argomentone, e anche al riposo del guerriero sicuramente avrete parlato di ansia, ma io voglio sapere, il conduttore del riposo del guerriero, ricordo il contenitore domenicale di Radio 24 in onda dalle 10 alle 16:30, che bersagli preferisce la tua ansia, dove la somatizzi di più, Stefano? Allora, senti, io so che non è molto educato, ma posso rispondere a una domanda prima con una domanda al professore? Sì, bravo. Lavorare, dai. La mia curiosità è questa: l'ansia produce anche adrenalina o sono cose assolutamente distinte? Ma questa è una domanda interessante perché l'ansia è una delle componenti, cioè l'adrenalina è una delle componenti della reazione d'ansia, quindi è vero che sono legate, però questo non vale per tutte le ansie. Per esempio, durante l'attacco di panico, che è un tipico rappresentante di disturbi d'ansia, non si è verificato che c'è questa esplosione furibonda di adrenalina. Addirittura sembra che durante l'attacco di panico i meccanismi dello stress non siano così attivi come durante l'ansia in senso generale. Quindi anche lì l'ansia è un concetto unitario ma ha tante sfaccettature. L'adrenalina è sicuramente un modo per scatenare poi le reazioni del corpo. Ecco, allora posso rispondere alla domanda. Va bene, perché ti ha soddisfatto la risposta, se no andavi. Perché per non fare confusione. Certo. Allora diciamo che quando l'ansia è buona, sì, e quindi è un'ansia che c'è dovuta magari al tempo, ecco, se ho poco tempo per fare una cosa, mi scatta un meccanismo che credo che coinvolga l'adrenalina, per cui la coinvolgo proprio nell'attività. Sì. E quindi lavoro, sto bene, faccio molto in fretta e bene, riesco a essere molto concentrato. Invece quando non sono in ansia, quando sono troppo rilassato, faccio anche fatica a concentrarmi, quindi questa forse è un'ansia buona. Sicuramente, secondo me sì, ma noi abbiamo l'esperto, professor Perna. Assolutamente ragione, avete tutti e due ragione, perché l'ansia normalmente serve per aumentare la nostra capacità di reagire al mondo esterno, quindi attenzione, concentrazione, addirittura la capacità di reagire fisicamente, muscolarmente migliora, e in quel caso la persona utilizza l'ansia come trampolino per superare l'ostacolo che ha davanti. Quindi è verissimo, questa è l'ansia buona, quindi non bisogna demonizzare l'ansia, l'ansia se è patologica bisogna curarla e superarla, se è normale bisogna tenersela e ringraziarla. Ecco, invece per chiudere, al contrario, quando ho un'ansia per qualcosa che non posso risolvere, perché è il tipico meccanismo del pensare troppo avanti, no? Sì, quindi uno pensa l'anticipazione. Troppo avanti, l'anticipazione, allora a quel punto invece la scarico fisicamente e come diceva il professore, a questo punto ti senti svenire, pensi di stare male, invece in realtà stai benissimo ed è soltanto proprio l'ansia che ti provoca questo indebolimento fisico, tra virgolette. Professor Perna? Che è proprio vero, nel senso che quando noi ci troviamo davanti a un ostacolo che possiamo superare, la nostra reazione iniziale è quella di potenziare l'energia per superarla. Quando siamo di fronte a un ostacolo che non possiamo superare in qualche maniera o comunque che non possiamo affrontare, è chiaro che da qualche parte questa energia si deve scaricare. Esatto, e molto sì, spesso si scarica proprio sul corpo. Allora, arrivano tantissimi messaggi, ad esempio, a me l'ansia blocca l'intestino, ci scrive Alice, come fare? Oppure un altro ascoltatore ci scrive, soffro d'ansia dal dicembre 2007 dopo un attacco di panico, ho tutti i sintomi che avete elencato e fra i tanti non riesco a dormire bene di notte perché mi sveglio spesso. Cosa posso fare per stare meglio? Al momento vado dallo psicoterapeuta 2 volte al mese. Molto ansioso anche Enzo da Milano che ci scrive, addirittura mi viene ansia nell'attesa di momenti belli. Di tutto questo parleremo nel corso della trasmissione. Intanto io saluto Stefano Gallarini. Ciao Stefano, grazie. Ciao, grazie, grazie professore. Chiedi a qualche fitoterapeuta se funziona la tilia tomentosa. Va bene, di questo sicuramente provvederemo. Grazie Stefano, un abbraccio, ci vediamo presto noi. Buongiorno a tutti. Allora, siamo pronti? Diteci dove morde l'ansia, se vi prende lo stomaco, la testa, se vi fa sentire, se si fa sentire con dolori, tensioni, malessere diffuso, oppure se tutto si gioca più a livello cerebrale, andando quindi ad avvelenare pensieri, progetti, sogni, voglia di fare e anche di libertà. 800-24-0024, il professor Perna rimane con noi, potete anche scrivere come avete fatto al 349-238-6666. Una mela al giorno. Oggi è una giornata importante, l'Alcohol Prevention Day, tradotto in italiano suona come giorno per la prevenzione dell'abuso di alcol. In linea con noi abbiamo il professor Emanuele Scafato, direttore dell'Osservatorio Nazionale Alcol dell'Istituto Superiore di Sanità, che ci aiuta a capire cos'è questo appuntamento e che cosa si aspettano gli operatori che lo sostengono da anni con il loro lavoro. Professor Scafato, bentornato e buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Professore, sono 8 anni che si celebra questa giornata, che manda messaggi molto chiari ai ragazzi, ne abbiamo costruiti insieme delle intere trasmissioni, ma cosa è cambiato in questo periodo? Perché i dati mi sembrano scoraggianti, si fa tanta prevenzione ma il rischio a me sembra che rimanga molto alto. Ma non solo rimane alto ma si eleva ancora di più, oggi noi praticamente non facciamo nient'altro che identificare 1,5 milioni di giovani a rischio di consumo alcolico, di età compresa tra gli 11 e i 24 anni. Per la prima volta in Italia abbiamo riportato in relazione al Parlamento una percentuale assolutamente mai vista in Italia di alcol dipendenti al di sotto dei 29 anni, ma quello che più turba è che i nuovi utenti al di sotto dei 19 anni sono all'incirca il 6%. Allora, il perché di questo esito finale, di questo esito drammatico, di un quella che dovrebbe essere tutto sommato un'abitudine persino quotidiana come lo erano le abitudini mediterranee, che invece è stata interpretata dai ragazzi in maniera, diciamo, non anglosassone e non scandinava, ma addirittura peggio, perché non abbiamo neanche gli anticorpi nella cultura per controbattere questa cultura dello sballo, del binge drinking del fine settimana. Professor Scafato, le ragazze che assumono alcolici sono in aumento rispetto ai ragazzi? Assolutamente sì. Noi quando siamo andati in discoteca con il progetto Il Pilota, lo facciamo tutti gli anni, non lo faremo più perché purtroppo non ci sono più finanziamenti e noi non riceviamo più finanziamenti per la ricerca sull'alcol, questo è un dramma nel dramma. Quando siamo andati nelle discoteche abbiamo chiesto ai ragazzi se gli capitasse di bere. Beh, in confronto alle statistiche normali, magari quelle dell'Istat, riscontriamo quasi il 90%, l'86% dei ragazzi che nella serata di sabato consuma. Io mi metto nei panni di quel poveretto, di quella poveretta che non beve e che praticamente è circondata da persone che bevono, ma non bevono soltanto per il gusto di bere, perché oltre il 60% lo fa per ubriacarsi. Se sono soprattutto le ragazzine al di sotto dei 18 anni, ricordo che in Italia esiste una legge che vieta la somministrazione al di sotto dei 16 anni e speriamo che passi una norma di legge, un decreto legge che vieti la vendita e non solo la somministrazione di alcol ai giovani, possibilmente al di sotto dei 18 anni. E quando noi vediamo questi fatti, soprattutto ci troviamo in presenza di un ulteriore problema di disuguaglianza di salute, perché la donna è più vulnerabile addirittura del ragazzo, è chiaro che dobbiamo ovviamente rilanciare l'allarme sociale e dire attenzione, ripensiamo un attimo al modello di vigilanza e di monitoraggio anche dei nostri figli, quindi cominciamo a educarli, cominciamo a parlare in casa dell'alcol come parliamo del fumo o del sesso protetto, delle droghe, perché l'alcol è una droga e la droga ha, diciamo, a più basso costo e che chiaramente in certe quantità che non sono quelle della degustazione, che non sono quelle del piacere di bere magari un bicchiere di vino, purtroppo determina appunto la dipendenza e può determinare anche una morte improvvisa, come ha dimostrato Jürgen Rem, il professor Jürgen Rem dell'Università del Canada, che oggi ci ha detto che in Italia il 7% di tutte le disabilità è dovuta all'alcol, diciamo, correlato alla guida, e diventerà la terza causa di disabilità in Italia. Ma è questo che vogliamo? Professor Scafato, lasciamoci con questa domanda che passiamo naturalmente ai nostri ascoltatori. Grazie professore, buona giornata. Grazie a tutti voi. Pronto soccorso. E noi torniamo ad occuparci della nostra ansia. Cerchiamo di salvare l'ansia buona e di evitare invece di cadere nell'ansia cattiva. Sono arrivate già tantissime richieste d'aiuto. Professor Perna, io vorrei che lei oggi ci desse dei consigli pratici. So che è difficile, ma lei è bravo e quindi sono certa che ce la farà. Non le venga l'ansia. No, assolutamente. Senta professore, andiamo proprio a dei casi che ci suggeriscono i nostri ascoltatori. Lino ad esempio ci scrive: soffro d'ansia da anni, principalmente mi prende al respiro, ho fame d'aria, mi limita la vita, ormai sono 4 anni che ci convivo. Cosa mi suggerite, professore? Allora, questa è ovviamente premettendo che non si fanno visite alla radio, però certo, è un sintomo molto importante perché è espressione spesso di un problema di panico di sottofondo, cioè io posso non avere gli attacchi di panico veri e propri, ma quando ho dei sintomi respiratori anomali vuol dire che la mia predisposizione è in quel livello. Allora cosa bisogna fare? In quel caso bisogna andare da uno psichiatra e curarsi, perché non passa da solo quel tipo di sintomo. Esistono delle tecniche respiratorie che possono aiutare, ma anche queste sono specifiche, fatte in centri specializzati e non quindi semplice yoga o meditazione. Quello può aiutare da altri versanti, ma non per quel tipo di problema. Allora, ci sono, ad esempio, ne leggo un altro perché ne ho diversi e sono uno più bello dell'altro perché ci danno tantissimi spunti. Clara ci chiama da Milano. L'ansia mi blocca, mi assale la paura, lo scoraggiamento e la voglia di non fare nulla. Tante volte l'ansia ci fa mettere la marcia e quindi acceleriamo. Altre volte l'ansia è talmente pesante che ci schiaccia e rimaniamo immobili. Come quando gli animali, penso ad esempio alle lepri, hanno paura e si fermano. Professor Perna. È vero questo, è vero perché quando l'ansia supera certi limiti diventa non funzionale, quindi non carica, non dà quella spinta per agire, ma in realtà blocca l'azione. In questo caso bisogna capire ovviamente il contesto, perché se io ho dei motivi per essere molto ansioso, cioè se io ero al terremoto in Abruzzo e mi è venuta un'ansia talmente forte che mi sono paralizzato, non è un'ansia patologica, certo, è una reazione ansiosa, no? Se io ho avuto una vita tranquilla, non è cambiato nulla e mi capitano queste cose, diventa una condizione patologica, quindi è fondamentale capire questa cosa qui. Poi esistono tante tecniche, sia per gestire l'ansia normale, tipo rilassamento, tipo l'attività fisica, tipo quello che è la capacità di prendersi degli spazi durante la giornata, mentre se è un'ansia patologica anche lì abbiamo tante armi che aiutano a superarla, quindi anche lì una chiacchierata con uno specialista non è mai sbagliato. Ecco, lei ha detto, rispondendo all'SMS del primo ascoltatore, bisogna farsi vedere da uno psichiatra. Sa che lo diciamo sempre, mi dispiace, ne parlo sempre con lei che fa lo psichiatra, ma il termine psichiatra già ci mette ansia. È vero, questo è purtroppo un grande stigma del passato, perché l'errore grosso è una suddivisione di categorie, cioè quello che si dice che lo psicologo cura chi ha disturbi lievi, l'neurologo chi ha disturbi medi e lo psichiatra cura i matti. Questo è sbagliatissimo, perché sono tre mestieri differenti, cioè lo psichiatra cura dalla semplice ansia alla fobia fino ad arrivare alla schizofrenia, sì, un po' come il medico che cura il raffreddore può curare il cancro. Lo psicologo è molto importante perché aiuta a riattivare le risorse dell'individuo e quindi a portare l'individuo ad affrontare meglio i problemi, ma non cura le malattie. Sì. Il neurologo di solito si occupa di patologie più tipo l'ictus, tipo le demenze, quindi più di tipo organiche vere e proprie. Per cui lo psichiatra non è un bau-bau, non è l'anticamera della pazzia, anzi è una persona che conosce a 360 gradi il funzionamento della mente e può dare un aiuto, quindi queste sono le differenze. Antonella ci chiama da Roma, 824 0024, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, allora io avevo, cioè per due volte nella mia vita ho incontrato l'ansia, quella brutta, sì, che mi ha portato poi attacchi di panico, un po' di depressione. E ogni volta iniziava in un certo modo, cioè sì, iniziava con una parte del disturbo del sonno, sì, quasi improvviso, e poi questa sete d'aria che mi portava ad avere questa ricerca continua del respiro, che poi io trovavo solo nel momento dello sbadiglio. Sì. È una cosa strana, però ho capito che quella è la prima avvisaglia per poi arrivare a cose che oggi conosco, quindi so combattere perché le ho risolte e quindi mi sento più tranquilla, perché una volta che uno le risolve si sente sì, un po' forte, no? Sente di avere uno strumento in mano. È vero, Antonella. Perché non credo che ci abbandonerà mai questa ansia. Sì, e anche perché il professor Perna dice l'ansia è positiva, avere l'ansia è fisiologico, è giusto, ci aiuta anche proprio a vivere e a sopravvivere. Professor Perna, Antonella faceva riferimento a un disturbo caratteristico anche proprio dell'attacco di panico, che è proprio questa fame d'aria, tanto che molte persone di fronte ad un attacco di panico che si manifesta con dei sintomi fisici molto caratteristici, giustamente si rivolgono al medico o vanno addirittura in pronto soccorso. Vorrei un suo commento. Beh, hai ragione al 100%. Quello che bisogna stare attenti è che quel tipo di ansia che descrive la signora e anche l'altro ascoltatore, no, sono delle condizioni patologiche, cioè questa non è un'ansia amica. Sì. Questa è un'ansia che rovina la vita perché ci priva della libertà di fare tante cose, intanto la libertà di dormire serenamente, ma poi anche la libertà di muoversi e la libertà in qualche maniera di sentire il nostro corpo come amico. Questo è importante perché il corpo, e questi sono due esempi importanti, si manifesta o manifesta, diventa la porta, lo specchio di quello che è la mente e dell'ansia, quindi molto spesso avere sintomi somatici quando non ci sono delle prove che esiste una malattia organica è proprio uno specchio dell'ansia. Però professor Perna, se noi con l'ansia impariamo a vivere bene, cioè a gestirla bene, ad accettarla, forse possiamo anche evitare che poi l'ansia ci ingabbi. Cioè un esercizio quasi quotidiano, un modo anche per conoscersi meglio. Che dice, professore? Quello può aiutare a gestire l'ansia non buona, patologica. Buona, certo, buona. In quel caso lì sono d'accordissimo, diventa un importante esercizio per conoscere noi stessi e utilizzare gli strumenti della mente, tipo l'ansia, per funzionare bene. Bisogna stare molto attenti e non applicare questo discorso invece quando c'è la patologia, certo, perché altrimenti andiamo in difficoltà. Noi continuiamo a parlare di ansia buona e in linea con noi abbiamo Francesca Senette, conduttrice di Italia allo specchio, il magazine di Rai 2. Francesca, ciao, benvenuta. Ciao, buongiorno a tutti. Un po' di ansia ce l'abbiamo tutte. Tu hai più l'ansia buona o temi qualche volta di scivolare in quella cattiva? Ma io diciamo che sono spesso in compagnia dell'ansia buona. Quella cattiva mi è venuta a trovare soltanto un paio di volte o tre, ma ho imparato appunto che se si gestisce fin dall'inizio, si riconosce un po' prima, si evita che quella buona si trasformi in cattiva. E quindi convivo, diciamo, conoscendo quelli che sono le situazioni, i momenti nei quali potrebbe manifestarsi l'ansia amica. Senti Francesca, oggi io chiedo anche ai miei ascoltatori di suggerirci quali sono le strategie, i modi con cui convivono con quell'ansia buona, no? Perché il professor Perna diceva, attenzione, bisogna, l'ansia patologica va individuata e curata. Certo. Stiamo sull'ansia buona, quella specie di agitazione, quella sorta di inadeguatezza che tutti noi sperimentiamo quando siamo, dobbiamo fare qualcosa, qualche certo, pensiero ci assale. Dacci la tua ricetta prima di salutarci. La mia ricetta è una ricetta veramente molto semplice ed elementare, ed è la respirazione. Cioè io ho imparato che nei momenti in cui mi sento appunto sotto stress o sento crescere dentro di me questa sensazione di ansia, devo provare a fare una respirazione addominale e quindi a concentrare tutta la respirazione nella pancia, a inspirare, a espirare, in modo da governare con la respirazione la mia tranquillità. E io con questi respiri profondi, ne bastano tre o quattro, ce la fai, riesco subito a tornare padrona di me, e questo è importante. Poi nei casi di emergenza ci sono i fiori di Bach, il Rescue Remedy, che ogni tanto una spruzzatina, voglio dire, è proprio nei casi di SOS. Grazie Francesca per essere stata con noi. Buon lavoro, buona giornata. Professor Perna, anche Stefano Gallarini ci chiedeva un rimedio fitoterapico, anche Francesca Senette si porta in borsa un rimedio omeopatico, i fiori di Bach, anzi. Eccoci, siamo tornati, professor Perna. Eccomi qua. Eccomi qua. Senta professore, abbiamo molte persone, me lo stanno chiedendo anche via SMS, mi chiedono, ma ci sono delle alternative? I farmaci ci fanno paura, ci sono persone quindi che ricorrono a rimedi omeopatici, fiori di Bach, fitoterapia, non voglio metterli tutti insieme in uno stesso mazzo, però insomma ci sono. Stefano Gallarini ci chiedeva un consiglio, Francesca Senette diceva appunto che utilizza un fiore di Bach, e lei che cosa ne pensa come psichiatra? Ma io dividerei in due gruppi, cioè se parliamo di ansia buona, quindi ansia che ci aiuta ma ci dà fastidio, l'utilizzo di strumenti anche alternativo può essere utilizzato, anche perché in qualche maniera non stiamo curando nulla, stiamo aiutando a gestirci. C'è quindi chi correrà, c'è chi si riposerà, c'è chi prenderà non so, la valeriana e così via. Per i disturbi d'ansia dobbiamo ricordarci che attualmente non esiste alcuna prova scientifica che funzionino. Quindi io sono abbastanza stretto su questo punto, perché la salute, anche l'ansia patologica fa parte delle malattie, e quindi la salute mentale è molto importante. Quindi io non consiglio l'utilizzo di fitoterapici, omeopatici o quello che è nei disturbi d'ansia. Questo perché non è validato scientificamente. Però, quando si tratta di avere delle ansie momentanee piuttosto che legate a delle situazioni vere, possiamo utilizzare tranquillamente qualsiasi sistema. Ricordiamoci un'altra cosa, molto spesso l'avere una qualcosa in tasca già fa un effetto placebo psicologico, quindi io mi sento già sicura perché ce l'ho, e quindi o assumere delle gocce XYZ può darmi quello che è un effetto di tipo suggestione. Questo credo che sia molto importante chiarirlo, proprio perché troppe persone che hanno dei disturbi d'ansia cattivi, quindi dell'ansia cattiva patologica, poi perdono anni di vita perché assumono sostanze che non hanno un valore nella cura di questi disturbi qui. Io ci tengo a dirlo proprio perché ho grande rispetto di chi soffre di questi problemi. Poi l'ansia normale la possiamo gestire in tante maniere e anche queste strategie sono importanti. Intanto, per capire, io prendo spunto dal suo libro, che devo dire è molto interessante, molto bello, io me lo sono divorato, perché è proprio un libro pensato per la gente comune, non per addetti ai lavori, e io mi sono ritrovata in tanti passi. Lei fa una domanda molto, suggerisce una domanda molto semplice e diretta: quanto l'ansia, se l'ansia aumenta o diminuisce il nostro rendimento nella vita? Lei dice: non stiamo a chiederci se sono felice o no, ma l'ansia mi aiuta o mi stoppa? Quindi è un invito che rivolgo anche ai nostri amici da casa. Intanto vado a Palermo perché ci aspetta Gianluca. Buongiorno. Buongiorno. Gianluca, siamo qua. Salve. Niente, volevo fare una piccola domanda. Visto, ho seguito questo programma che onestamente mi ha interessato subito. Io soffro praticamente di un'ansia patologica, a quanto ho capito, perché ripeto, lo sto seguendo da circa un quarto d'ora. E volevo chiedere al dottore se... Perché Gianluca si è fatto questa diagnosi? Se l'è fatta perché lei? Perché ho seguito, sì, ho seguito questo programma e quindi ho capito. Ha capito. Sì, ho capito le... Quali sono i sintomi? Sì. Sì, perché ho problemi respiratori, ho problemi di equilibrio ogni tanto. Sono un ragazzo che si emoziona molto facilmente, sia per le cose belle che per le cose brutte, perché siccome ho perso la mamma quando ero un po' piccolino, certo. Quindi questo sicuramente mi ha assegnato un po' questa fase della mia vita. Sì. Volevo chiedere se, siccome sono un ragazzo molto volenteroso, molto testardo, penso di superare questa cosa da solo, vorrei capire se c'è bisogno per forza di un aiuto medico. Grazie Gianluca. Lei tra l'altro è molto giovane, almeno dalla voce sembra così. Lei ha fatto una domanda chiave, professor Perna. Bisogna... È chiave per questo motivo. Perché avete paura di andare a parlare con un esperto? Perché non è che quando uno va da un medico, da uno psichiatra, deve andare lì e deve seguire quello che viene detto dal medico. Il medico è un consigliere, un consulente, è semplicemente una persona che da anni studia un disturbo, a cui voi chiedete un consiglio. Poi, una volta che vi dà il consiglio, è chiaro che è sempre la persona che decide. Quindi a me dispiace dire, perché rinunciare a un esperto, certo, visto che uno sta male? Andiamo a Treviso, invece ci aspetta Michele, 824-0024. Sì. Buongiorno Michele, benvenuto. Sì, buongiorno. Io volevo portare un attimo la mia testimonianza. Io ho cominciato ad avere un po' gli attacchi di panico un paio d'anni fa. Sì. E all'inizio ho trovato utile, anche io mi prendevano di notte, mi svegliavo di soprassalto e ho trovato molto utile fare delle attività fisiche in quei momenti, per cui mi sono comprato una cicletta. Sì. Poi avevo anch'io questa sensazione di, come si può dire, sete d'aria. Sì. E non lo so per quale ragione, ma per assurdo, respirando dentro un sacchetto di carta mi dava sollievo. Io non lo so perché. Sì. Non vuole essere un consiglio per nessuno, è quello che è successo, quello che ha dato beneficio a me. Però quello che da qualche mese mi ha fatto proprio sparire sti sintomi che avevo è stata una vostra trasmissione che ho sentito. Sì. Dove c'era, non mi ricordo più quale persona adesso, comunque, che diceva che l'attacco di panico è, usando testuali parole, una bugia del cervello. Sì, c'era anche il professor Perna, si ricorda, professore? Sì, abbiamo... c'era il professor Sorrentino. Il professor Sorrentino, che ha scritto proprio un libro anche su questo. Sì, e allora questo l'ha illuminata? Sì, le ha dato una mano. Perché quando mi sono venuti questi colpi di fulmine ho cominciato a ripetere dentro alla mia mente come un mantra, diciamo, non è vero, non è assolutamente vero, e cioè parlavo un po' con la mia mente, sì, un dialogo, ecco, dicendo quello che mi stai comunicando, queste sensazioni di negatività, di paura, non sono vere, te le sei inventate, e pian pianino si sono ridotti, io non lo so, per carità, che cosa è stato, però io da un po' di tempo non li ho più, ogni tanto mi sveglio ma riesco a combattere immediatamente la cosa e spariscono, per cui ecco, volevo solo dire questa cosa. Questa, Michele, è una bella storia, una bella esperienza, sono contenta anche che uno degli esperti di Radio 24 della trasmissione le abbia dato il là anche per lavorare un pochino di più su di sé, e quindi mi sembra che Michele, professor Perna, sia... Sono bellissime considerazioni, tutte molto pertinenti, perché l'esercizio fisico, l'abbiamo ripetuto molte volte, è terapeutico nella cura dei disturbi d'ansia, vuol dire che non è che basta solo quello, però sicuramente le prove scientifiche dicono che allenarsi 3 volte alla settimana 20 minuti aiuta, e questo è un consiglio pratico che va fatto. Seconda considerazione che è molto importante è il discorso della parte respiratoria, perché quello che ha fatto l'ascoltatore, cioè respirare un sacchetto di carta, è una strategia che ha un significato molto preciso, anche una spiegazione. Siccome quando io vengo colto da questi attacchi di panico inizio per reazione a respirare troppo, sì, ma essendo un falso allarme, questo respiro eccessivo non mi aiuta, anzi mi fa star peggio. Quindi respirando la propria aria nel sacchetto di carta, ricordatevi, non di plastica, di carta, a quel punto lì io cosa faccio? Evito, contrasto quella reazione del nostro corpo a un allarme che era falso, e quindi evito lo scatenamento di tutta una serie di malesseri che sono dovuti proprio a questo aver fregato il corpo con un falso allarme. L'ultimo punto cruciale è diventare consapevoli che noi non abbiamo una cosa drammatica, ma diventare consapevoli che l'ansia non è altro che un errore della nostra mente, ci permette in qualche maniera di avere un maggiore controllo di noi stessi. Questo aiuta a evitare di farsi travolgere dall'ansia. Però è vero, e dicevamo dall'ascoltatore, che purtroppo i segnali di questa vulnerabilità continuano a esserci. Allora il rischio è che uno li combatta molto bene, però la domanda è perché bisogna combatterle. Credo che chiunque abbia il diritto di non averli del tutto e pensare ad altro, e in quel caso spesso soltanto delle cure specifiche tipo farmacologico possono bloccare totalmente l'ombra del panico. Continuiamo a parlare di ansia tra poco, dopo le informazioni sul traffico, ma io voglio dirvi subito che in linea con noi abbiamo Raffaele Paganini. Buongiorno e benvenuto, che piacere. Buongiorno, è un piacere, buongiorno professore. Coreografo, Raffaele Paganini non si presenta neanche, ma attualmente è coreografo di Academy, soprattutto giudice, e questo nuovo talent show dedicato alla danza di Rai 2 ci racconterà un po' se la sua ansia, e soprattutto l'ansia che vede nei ragazzi che salgono sul palco. Siamo tornati insieme. Allora, Raffaele Paganini, un'ansia buona o combatte anche lui con un'ansia che diventa anche a volte cattiva? Beh, diciamo che c'è un 50%. Ovviamente sì. Io adesso per un attimo ho ascoltato queste pillole di saggezza del professore che mi hanno rincuorato, mi hanno tirato su. Mi verrebbe da dire che non è assolutamente, non posso dirlo, sono d'accordo con lui. non solo sono d'accordo con lui, ma lo ringrazio per avermi detto delle cose così importanti, perché in effetti poi serve anche a me. Io ho ascoltato con molta attenzione. Purtroppo la mia ansia in questo momento non è più tanto dedicata a me, grazie a Dio, l'ho un po' allontanata, no? Facendo training autogeno, insomma, lavorando su me stesso, e questo un pochino mi ha aiutato. E poi anche il fatto di maturare molto, di diventare sempre più, se vogliamo, perché poi è una convinzione che tu devi avere. Io alla fine, crescendo e lavorando, facendo 200 spettacoli l'anno, l'ansia un po' è andata via. Adesso però mi è tornata, perché con questo fatto dei ragazzi di Academy, io faccio le coreografie per loro e ho un'ansia quando loro si esibiscono, perché so perfettamente dove sono deboli e dove riescono invece a districarsi meglio, e mi viene un'ansia allucinante, per cui l'ansia probabilmente fa parte di noi, no? È un'ansia, io non so definirla buona o cattiva, so che c'è e a volte mi disturba, su questo non c'è dubbio, perché mi sento proprio che quasi vado anch'io in apnea e non riesco a respirare per tutti quel minuto e mezzo, 2 minuti che i ragazzi si esibiscono. E questo è interessante, perché me ne rendo conto e faccio, quando ho finito un grande respiro. Ecco, è l'ansia che provano anche un po' le mamme e i papà, no? Quando i ragazzi devono. Però, Raffaele, se mi permette, io proprio ho seguito al mattino presto le repliche delle selezioni del vostro The Academy. E devo dire che sono rimasta, mi è venuta questa idea, osservando come lei parla ai ragazzi, come lei fa anche le osservazioni, come li guarda, come li guida, io ho capito che ciascuno di noi può avere un ruolo importante nell'aiutare la persona, che può essere il nostro collega di lavoro, il nostro figlio, il nostro compagno, a venire a buoni patti con l'ansia. Non dico che ciascuno di noi può essere terapeuta per un altro, ma ecco, sicuramente un ruolo ciascuno di noi ce l'ha, tutte le volte che intraprendo una relazione. E devo dire che guardando lei io ho raccolto alcune indicazioni, alcuni segnali che cercherò anche io di mettere in atto. Professor Perna, è strampalata la mia idea? No, assolutamente no, è giusta. La relazione umana è fatta di empatia, quindi di scambio di sensazioni, di emozioni, e quindi quello che racconta Paganini è molto bello, perché vuol dire che lui quasi si mette nei panni dei ragazzi e quindi in un certo senso vive, sente, ascolta queste difficoltà, con un vantaggio che è la sua grande esperienza e con un suo svantaggio che non è lui l'attore principale, quindi sì, purtroppo uno spettatore esterno. Quindi sicuramente è fondamentale poi il ruolo dell'esperto, che pure vive l'ansia perché vede i suoi cuccioli tra virgolette affrontare situazioni magari anche più grandi di loro, quello sguardo, quel momento, quel senso di sicurezza, ma anche quella condivisione dell'ansia può essere un segnale che aiuta chi è davanti a trovare un proprio equilibrio. Quindi Raffaele Paganini non insegna solamente a danzare, non giudica, però ci mette del suo, perché secondo me i suoi ragazzi di ansia ne avranno, ma avranno un'ansia buona che lei sta insegnando. Io ci provo, in effetti quello che ha... Sì, siamo qua. Professore? Sì, sono qui. Le volevo dire che è assolutamente vero e giusto quello che dice lei, ovviamente, e io però non mi rendo conto di questo, secondo me lo attribuisco un pochino di più a quello che è la mia posizione attuale, sociale se vogliamo. Sono papà di due ragazzi che hanno più o meno la loro età, e quindi io cerco di trasferire il mio amore attraverso il cuore, attraverso la danza, attraverso l'arte, tutto quanto, a questi ragazzi, e mi rendo conto che loro dopo un po' stanno un pochino meglio. Io non cerco di non trasmettere loro ansia, infatti nella mia ansia sorrido e sì, cerco di dare loro carica e cercare di tirarli su, e io credo che sia un po' naturale perché probabilmente sono genitore anch'io, allora per me sono, come giustamente diceva lei professore, sono i miei cuccioli, ma è vero, sono veramente i miei cuccioli. Allora ricordiamo l'appuntamento Academy, quindi un po' di ansia comunque c'è, e vedremo come se la gestiscono questa ansia con i ragazzi di Academy. Grazie a Raffaele Paganini per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a te, grazie professor Berna, a presto. Arrivederci. Allora abbiamo Ernestina che ci chiama dalla provincia di Salerno, buongiorno Ernestina. Buongiorno, ciao a tutti. Ciao. Eccoci, ciao. Senti, che ci racconti? Ansia buona o ansia cattiva? Allora, io volevo far presente al dottore che io sono anni che mi porto dietro, insomma, questo stato d'ansia, che però presumo, almeno questa è una mia analisi, non so se è sbagliata, sia stata un'ansia buona fino a qualche tempo fa. Bene. Nel senso che mi ha dato, ecco, la forza di affrontare tutta una serie di ritmi. Ho sempre avuto dei ritmi estremamente accelerati, insomma, per affrontare la quotidianità, e questo non mi ha mai creato problemi. Però ho il sospetto, anzi la quasi certezza, che si sia trasformata in ansia per niente buona, perché da circa un anno e mezzo il campanello d'allarme è stato un attacco d'ansia molto forte un anno e mezzo fa, sì, con il bambino piccolo, insomma, dopodiché è circa un anno che io praticamente sono diventata apocondriaca, cioè io penso tutti i sacrosanti giorni, non c'è giorno che passi che io non pensi alle malattie, la morte, insomma, e questo mi ha portato a entrare in un circolo vizioso di controlli diagnostici, sì, frequentissimi, questo dal punto di vista psicologico. Dal punto di vista fisico invece io penso di aver somatizzato tutto questo, perché io ho continui disturbi fisici a livello gastrointestinale, dolori di schiena, emicranie, cefalee, insomma, quindi... Insomma, si entra in un circolo, esatto, vizioso. Professor Perna, noi abbiamo un minuto e qualcosa per rispondere ad Ernestina, che ci dà tantissimi spunti, sì, da cui dovremmo prendere spunto a nostra volta per fare un'altra puntata. Professore. Ma direi di sì, purtroppo l'ansia è un oceano, e in questo oceano c'è la parte buona che, come dice lei, l'ha aiutata, ma quando si arriva ad avere queste ossessioni, queste fisse, questo continuo a dover controllarsi anche fisicamente, siamo, come dice lei, in un'ipocondria. Anche lì non siete soli, avete davanti un sacco di professionisti che vi possono aiutare. Non combattete da soli, perché sono battaglie difficilissime in cui la buona volontà da sola non basta. Quindi il messaggio è: l'ansia teniamocela buona, perché è una cosa utile e preziosa per tutti, ma quando ci ostacola abbiamo la serenità di andare da chi ha studiato per anni il problema, che può darci un buon consiglio. Quindi in presenza di pensieri ricorrenti, di controlli costanti, di comportamenti che non riusciamo a trattenere, professore, non combattiamo da soli, rivolgiamoci ad uno specialista. Assolutamente sì. Mi piace ad ogni chiusura di trasmissione, insomma, chiudere con un messaggio del nostro specialista. Possiamo dire che è questo quello di oggi? Sì, direi di sì, è quello di non aver paura a chiedere aiuto e non aver paura dell'ansia, quindi non siamo di fronte a qualcosa di terrificante, siamo davanti a una caratteristica umana che talvolta ci mette in difficoltà e abbiamo tanto studioso insieme, quindi non siamo soli. Professor Perna, grazie per essere con noi, ricordo il titolo del suo libro, Ansia, come uscire dalla gabbia e riprendersi la vita, PM Edizioni, spero che con i nostri consigli di avervi aiutato a fare un piccolo passo per uscire fuori da questa gabbia. Professor Perna, buongiorno e grazie. Domani, come sempre, dopo il GR delle 11 vi aspetto. Buona giornata e buona ansia, buona da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.